Bisogna vedere se i ribelli accettano o meno il cessate il fuoco, parliamo degli separatisti dell'est. La guerra per ora continua, è per questo che abbiamo aperto quei cannoni. Lui pensava di finirla in pochi giorni, ovviamente la politica e la strategia militare sono una cosa diversa. C'è stata una telefonata con Putin che poco fa, sempre pochi minuti fa, ha convocato una riunione urgente del suo Consiglio di Sicurezza, vediamo su che tema, potrebbe essere l'Ucraina, ma non solo, perché insomma le tensioni non mancano, come vedremo poi nel seguito. Intanto sapete tutti che, come avevamo annunciato, Gazprom ha tagliato le forniture di gas, chiede il pagamento anticipato, Kiev non vuole pagare la bolletta. La cosa più divertente in tutta questa saga è che la NATO ha detto che, udite udite, dietro i movimenti anti-fracking ci sono finanziamenti russi. Appunto. Il tuo commento è così. L'intelligence della NATO. Sentila, l'intelligence della NATO. Sentila. Allora, signor Powers, conosce la Ligandi? Stai scherzando, bambola? Hai presente l'Alli? Bene, io sono il Galli, baby. L'Alli e il Galli. Salamini. Salamini di revisione del titolo quinto. 6 italiani su 10 detestano le regioni. La spesa regionale, scrive oggi Michele Ainis sul Corriere, succhia 90 miliardi in più nell'arco di un decennio. Al confronto le province sono verginelle. Allora, che cosa succede? Che noi abbiamo mandato al patibolo le vergini santificando le matrone. E tutto è peggiorato con la riforma del 2001. Ed è stata una sbornia di competenze, uno scialo in conseguenza. Ma il governo oggi ci illude con queste povere, timide, vergini province e tiene in piedi le idrovore. Io dico che bastava fare affidamento ad Ercole, che combatté contro l'idra dalle sette teste. Giusto? Mitologia. No, è come la fa lunga. Non è che la faccio lunga, è che tra queste matrone ci sono le buttanissime dello statuto speciale. E quindi musica. Viva, viva Garibaldi. Colpa di Garibaldi. Sergio Guarda Caputo. Che prima di Caterina, prima di Battiato la cantava Caterina Caselli. Sì, lo so, lo so. Ecco, no, vabbè, però dobbiamo andare, insomma. Tutto. Quota rosa. Vai, Caterina, vai, Sara. Eccomi. Chi di noi, vi chiedo, non ha un cellulare sepolto in un cassetto? Bene, secondo un rapporto del Politecnico di Milano, nelle nostre case ci sono 120 milioni di cellulari rotti o inutilizzati. Ma pochi sanno che c'è una nuova norma molto utile che impone ai commercianti di ritirare gratuitamente il telefonino che volete buttare. Quindi un problema in meno per noi che non sappiamo mai dove buttare le cose e meno spreco per tutti. Ma ancora bolle. Che pensi di fare qui, Miller? Per quale motivo sei fuori dalla tua zona? Sono qui per trovare armi e salvare vite. Sarà un po' complicato. Non per me. Vabbè, questa era Green Zone sull'Iraq e quindi andiamo al caos iracheno. Gli Stati Uniti stanno cercando di far cadere il governo di al-Maliki. Questa è la notizia. Che considerano, in questo caso la pensano bene, il principale responsabile del caos. Ha escluso i sunniti, ha favorito l'ascesa di fatto delle milizie di ISIS che dalla Siria sono penetrate in Iraq. Serve un governo che tenga dentro i sunniti e i curdi. Caro Giovanni e caro Pietrangelo, tu sai bene di che cosa sto parlando, perché lì non c'è unità. A questo punto che cosa succede? C'è il totto candidati pure in Iraq, in mezzo alle bombe, alle stragi, alle decapitazioni, alle esecuzioni sommarie, e chi vengono fuori? Allawi, che è ex premier, e udite udite, cari amici, qualcuno lo ricorderà, Ahmed Chalabi, ex ministro del petrolio. Quest'ultimo è una vecchia conoscenza di Washington. Vabbè, normale. Sì, però quello del 2003 convinse Bush che c'erano le armi di distruzione di massa. E questa roba, insomma, non è che è andata benissimo. Io posso capire perfino l'invasione, la caduta di Saddam, ma non c'erano le armi non di distruzione. C'erano. Diciamo che in Iraq non hanno a disposizione dei badoglio rappresentabili. E quindi capisci... Allora, l'emergere di nuovo queste figure sono tutte figure che non uniscono il paese, quindi devono trovare, secondo me, altri candidati. Sul terreno segnalo solo che ISIS avanza e le compagnie petrolifere stanno evacuando personale. Mm. La sigla di Dallas. Perché sempre di petrolio parliamo. Faccio solo, Giovanni, solo un piccolo passaggio per segnalare che Paolo Scaroni, un grande manager italiano che ha lasciato Eni, è diventato vicepresidente di una veneratissima istituzione finanziaria, cioè Rothschild. Parliamo di un'istituzione con 200 anni di storia. È un incarico di grande prestigio. Mi pongo solo una domanda, solo una. Ma come mai in Italia non c'era più, pare non ci fosse più un posto importante per Scaroni in un'istituzione e se lo prendono poi in una banca così importante come Rothschild? Non è che stiamo sbagliando qualcosa? Stiamo rottamando. Noi bisogna rottamare tutto. No, non bisognerebbe forse, ma questo non è che perché hai fatto, non è che perché hai fatto un percorso in un'istituzione di un po' d'anni poi mi mandi via. Nella seconda ora, oggi, raccontiamo dopo il giornale radio una storia di agenti segreti, di depistaggi, di colpi di scena, una storia che attraversa le vicende del nostro paese attraverso il top secret. È una guerra non ortodossa, come la chiama il terrorista Vincenzo Vinciguerra, sul quale hanno indagato molti magistrati. È la storia di Gladio Salamino. Salamini motorizzati, che non sarebbero poi salamini maggiorati. Insomma, nessuno vuole le auto blu. Gli italiani se ne fregano del parco macchine del governo messe all'asta. E la mossa di Matteo Renzi non ha avuto presa. Ed è una fortuna se si pensa che tutta la sovrasposizione mediatica poi fa impazzire gli altri ministri. Angelino Alfano, per esempio, che se ne è uscito fuori con quella gaffe terrificante sul sospetto assassino di Yara, no? Ora sta cercando di recuperare, non so se l'avete saputo, lui sta cercando di recuperare alla gaffe ed è andato in uno dei centri accoglienza a cercare qualcuno che gli possa fare una treccina, così per non essere da meno rispetto a Maria Elena Boschi. Ma su questo però è una battaglia persa, vince su tutti i Renzi, ormai i riflettori sono solo su di lui e anche quando lo chiama all'ordine la Merkel, forte della Mercedes, lui risponde così: vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu, automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia torpedo blu. Mix 24. Canzoniere. Sì, mi dico, tra poco sarà tutto finito. Abbiamo visto abbastanza, 65 anni e passa davvero, che ti può fregare della più peggio arcibomba HZY, aria fritta, briciole, solo orribile il sentimento d'aver perduto così tutto il proprio tempo tra megatoni di sforzi e sta dannata mastruosa orda di alcolosi checche lacche. Vacca miseria, mamma signore mia, stia zitto, eh. Questa è la grande letteratura. Grande letteratura. 800 24 00 24 349 238 6666 per chi frequenta questa grande letteratura. Diamo un aiutino se vuoi. Diamo un aiutino. La musica può essere un suggerimento, quel sottofondo. Certo. Via un po' di musichetta di sottofondo e intanto io, professore Simonelli, no. Ce l'abbiamo? La risposta no. Non ce l'ha la risposta? No, troppo letteratura, troppo grande. Troppo per grande per lei? Non lo sa. È un cattivo l'autore, uno proprio cattivo. È cattivo, cattivo, cattivo, sarà buttafuoco. No, di no. Più, di più. Vabbè, intanto dov'era il canone ieri sera, professore? Musichetta anche per me. La palla è rotonda, si gioca di prima e di seconda, ribalza, si sacca, ti sembra. Stiamo molto discutendo di tutte le ore di trasmissione che le reti televisive pubbliche e private dedicano al mondiale, ma stiamo parlando del contorno. Io invece volevo richiamare l'attenzione sul centro, non sul contorno, perché noi spendiamo moltissimi soldi per i diritti dei mondiali e moltissimi soldi per le regie delle partite, che non sono affatto belle. Io vorrei sottolineare e aprire anche un dibattito sulla qualità della regia delle partite dei mondiali, che mi sembrano assolutamente fuori luogo, piene di stacchi, piene di primi piani, spezzettano continuamente l'inquadratura. Beh, è la nuova, il nuovo modo di fare regia. È nuovo modo, ma questa volta viene ancora esasperato. È da telefilm, da non si vede il gioco. Si dice, questo modo si dice alla francese, perché è stato inaugurato con i mondiali di Francia del 98. Vabbè, alla francese. Ma adesso viene veramente in maniera eccessiva usato. Troppo. Molto enfatizzata, molto a me piace. Attenta ai dettagli. A me piace. A lei piace. Sì. Stimola il narcisismo del pubblico, tutti lì, quelli del pubblico, a vedere se sono inquadrati, a salutare, e quello che si perde è il gioco del calcio. Vabbè, altro canone, cosa. Professore, allora, per il venerdì, per il weekend? Weekend ricchissimo, perché ci sono moltissime cose. Allora, prima di tutto segnaliamo su Canale 5 questa sera, molto tardi per la verità, alle 23.30, il programma di Vice Domini, Hit the Road Man. Quindi bellissimo. Si può vedere la partita e poi aspettare, ma su Rai 3 comincia anche una nuova serie di Radici, l'altra faccia dell'immigrazione, una serie interessante perché parla di immigrazione ma con una struttura molto particolare, è un immigrato in Italia che racconta il suo paese d'origine, non molto originalmente questa sera è dedicato al Brasile. Inoltre ci sono due film in questa serata, uno è su Cult, su Sky Cult, Miele, il primo film di Valeria Golino, ma soprattutto su Rai Premium alle 17.30 c'è un classico, 10 in amore, è un po' in alternativa alla partita dell'Italia, quindi non credo che avrà molto successo, ma lo devo segnalare perché è una storia molto originale, un film degli anni 50 in cui un giornalista, Claire Gable, uno di quelli convinti che il giornalismo si impara consumando le suole delle scarpe, si intrufola in una di quelle scuole di giornalismo che Buttafuoco non ama, no? Dove si fa teoria del giornalismo, e la professoressa è Doris Day e ovviamente ne capiteranno di tutti i colori, compreso ovviamente l'amore, ma quello che conta è il conflitto tra la teoria del giornalismo e la pratica del giornalismo. Va bene, e allora weekend ricco, ricco. Che si chiuderà domenica sera ovviamente con l'arrivo su Rai 3, niente poco di meno che, come diceva Mario Riva, di Dario Fo. Bene, ecco, nella seconda ora dopo il giornale radio, Dario Fo per la grande gioia di Pietrangelo, nella seconda ora, dicevo, dopo il giornale radio, Marina Binone racconterà la storia di Gladio, una struttura finanziata dalla NATO in funzione antisovietica durante la Guerra Fredda e, come dire, denunciata da Andreotti nel 90, la puntata è di Lucio Mollica. E intanto Sara Tardelli ha intervistato, che è molto, molto ammirata dai nostri radioascoltatori che continuano, penso a Massimiliano da Udine e tanti altri. Sara Tardelli, dicevo, ha intervistato Federica Cellini, una giornalista che si è occupata di sbarchi, di immigrazione, ma anche d'altro. Federica Cellini, giornalista e regista, però prestata al mondo dell'arte, perché al Castello di Rivoli c'è Draunara, una tua installazione che racconta una notte di sbarchi di migranti a Lampedusa. In che modo? attraverso degli scatti le immagini del momento esatto dell'arrivo dei migranti sull'isola, e quindi io attraverso l'audio ho voluto raccontare invece tutto questo percorso. Ci sono i suoni delle taniche d'acqua con le quali i migranti devono attraversare il deserto, piano piano si arriva alle coste arabe, per cui il linguaggio cambia, e poi ci sono le carceri, quello è un momento devastante dove si sentono appunto rumori di catene, preghiere, pianti, e poi l'arrivo sulla costa di Lampedusa, accolti dai suoni degli elicotteri, le voci italiane della prima accoglienza. Tutto questo è ricreato dentro un container all'interno del quale ci sono dei piccolissimi fori a parete. Dentro è completamente buio. Completamente buio, in una situazione di scomodità va cercato questo foro per trovare questi scatti elettroilluminati con dei soffi di suoni che vengono spinti nelle orecchie di chi guarda. Federica, e le persone come hanno reagito, voglio dire, in un tempio dell'arte contemporanea come il Castello di Rivoli, al tuo container sensoriale? Le persone hanno avuto una reazione molto molto forte, molti di loro si sono sentiti persi, quasi smarriti all'interno di questo container buio, molti si sono dovuti accontentare di una posizione veramente scomoda, e poi c'è un ragazzo che è uscito da lì ed è venuto verso di noi, tremava e diceva: è esattamente quello che mi è successo a me, io sono arrivato così, sono arrivato su quelle barche, e questa per me è stata una grandissima emozione. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato e infatti il tuo progetto continua a Lampedusa il 3 ottobre per la prima giornata della memoria. Quale obiettivo avete? Non permettere di dimenticare quello che succede nel nostro mare, nel mare Mediterraneo. E voi chiederete anche qualcosa all'Europa? Esatto, un corridoio umanitario, e che tutti si impegnino in questa maratona di accoglienza rispetto ai migranti. Non è un problema solo italiano, ma è un problema europeo, un problema globale. Il 3 ottobre si tornerà a Lampedusa, ci sarà una mostra nella quale verrà portato dal Castello di Rivoli, da Beatrice Mest, il mio container Draunara proprio sull'isola. C'è una raccolta fondi che serviranno a realizzare questo programma della prima giornata della memoria e dell'accoglienza, e tutto si può trovare sul sito che si chiama comitato3ottobre.it per sostenere la memoria. Abbiamo al telefono per il nostro canzoniere Andrea da Milano. Pietrangelo, tutto per te. Allora, buongiorno, qual è? Buongiorno. Qual è la risposta? Nord di Luis di Céline. Giusto, Feltrinelli, il grande Céline. Andrea, da dove ci chiama? No, da Milano l'ho visto, ma da dove? Diciamo dall'autostrada tra Milano e Varese. Dove sta andando di bello? A lavorare, ovviamente. Dove, a Varese o a Milano? Sì, vabbè, in provincia di Varese, lavoro al centro di ricerca della Commissione Europea che c'è a Ispra. Ah, ho capito, bene. Auguri, buon lavoro. Pietrangelo, vuole dire una cosa sull'intervista di Sara prima di chiudere? Sì, no, mi sono ricordato che così come il presidente Grasso ha fatto le sue celebrate lezioni di mafia, adesso so che la Boldrini, dopo aver esposto il cartello Welcome to Italy, ho pronunciato bene, sì, adesso fa lezioni di sbarco. Oh. Ah, e quindi addirittura? Sì, Rai 5 dovrà metterlo in palinsesto. Forse lo sapremo, e lo diremo al professor Simonelli, e ci farà il resoconto.